Kellogg. La realtà condivisa. Di Gianluca Nicoletti. Riascoltiamo la puntata di Melog, andata in onda il 30 gennaio. Erano probabilmente somali e facevano i parcheggiatori abusivi, i due senza tetto morti carbonizzati sabato notte nel sottopasso di Piazza Fiume, vicino via Veneto, nel centro di Roma. La polizia sta ricostruendo la dinamica della tragedia avvenuta alle 4 in una delle uscite di sicurezza del sottopassaggio, trasformato da anni in dormitorio per clochard e discarica di ogni genere di rifiuti. Accendendo un fuoco hanno trovato la morte. L'ipotesi più probabile, secondo gli inquirenti, è che i due senza tetto, probabilmente di nazionalità somala, a causa del freddo abbiano dato fuoco ad alcuni cartoni per scaldarsi, innescando tuttavia un incendio che non gli ha lasciato scampo. I due, di circa 30 anni, sembra con regolare permesso di soggiorno, sono stati visti da due testimoni due ore prima del rogo mentre raccoglievano cartoni fuori da un supermercato, da usare come coperte e come materiale per un falò per scaldarsi. La notizia arriva in tempestiva rispetto alle classiche notizie che raccontano le tragiche esistenze e le ancor più tragiche fini dei senza dimora. Se ne è parlato in maniera abbastanza marginale su qualche giornale dell'ennesimo ritrovamento di persone senza dimora morte. In questo caso sono stati trovati carbonizzati in un tunnel, un passaggio pedonale all'altezza più o meno di via Veneto. Non so se qualcuno conosce Roma, il culmine di via Veneto, una delle zone più celebrate di Roma, le zone che perlomeno nella tradizione appartengono a l'area alta della città. Ci sono bellissimi alberghi, uno di questi alberghi passò le cronache qualche anno fa perché fu il luogo fatato di un festino notturno con donne, trans, cocaina, non si sa bene, di un onorevole molto devoto e molto cristiano. Beh, immaginate che a vista di quell'hotel c'è un sottopassaggio vicino le mura di Porta Pinciana, poi si scende giù per Villa Borghese, dove praticamente, come in tanti altri posti della città di Roma, si creano delle città sotterranee, delle propaggini città sotterranee. C'è una vera e propria edilizia miserabile. Capita di vederle anche durante il giorno. Ci sono delle brandine, delle masserizie, qualcosa che assomiglia all'arredamento di una casa ricavato con materiali di fortuna. Beh, lì sono stati trovati carbonizzati questi due signori. Un anno fa, poco più distante, verso Porta Pia, è stata trovata un'altra persona morta da qualche tempo in una sorta di immondezzaio tra topi e spazzatura. Non calco la mano su questo per creare stati di commozione o per rovinare la bella mattina assolata dei romani e di quelli come loro. No, perché è il caso di cominciare a parlare di come stia diventando un problema forte, pressante, quello delle persone che non hanno casa. Ma non hanno casa per vari motivi, e questa mattina cercheremo di capirli, visto che ci siamo occupati loro più volte. Ma c'è probabilmente un fatto in più, un fattore nuovo, un fattore emergente. È così diventato ormai fisiologico, è così entrato nel DNA della nostra società questa mutazione delle persone senza casa, che queste si stanno organizzando, stanno diventando una vera e propria società sotterranea. Io vedo e osservo la città di Roma, mi piacerebbe questa mattina sapere dalle testimonianze degli ascoltori se accade anche in altre città. È come se a Roma si stesse costruendo, edificando con materiali di fortuna, con leggi non scritte, con giustizia amministrata molte volte, come abbiamo letto nel giornale, con sommari atti di esecuzione che servono a stabilire il territorio, a stabilire delle priorità, delle egemonie. Esiste tutto un piccolo commercio di ricavo di ciò che è nella spazzatura. Nel quartiere Prati in cui abito io ormai da un anno e mezzo, due anni, si vedono frotte di persone con un carrellino, uomini e donne, che passano la giornata e la nottata a rovistare nella spazzatura, portando via cose che noi non immaginiamo più utili a qualcuno, e poi le vediamo vendere in dei mercatini, quindi delle sottoeconomie. Si amministra giustizia, si mettono in piedi dei modelli economici, si fa una sorta di racket dell'edilizia clandestina. Provate a farvi una passeggiata in bicicletta nella pista ciclabile che va nel Lungotevere da Ponte Milvio avanti fino all'isola Tiberina e anche oltre. Vi accorgerete che negli argini del Tevere, in questi giorni è quasi esodato, è alto, ma in realtà è esodato non è la parola giusta, è quasi straripato, è uscito dai suoi argini, è un'altra cosa. Ecco, esiste nascosti nelle sterpaglie, fra gli alberi, nei nidi più fecondi di grandi famiglie di topi, tutta una serie di, quasi una piccola città fatta di lamiere, fatta di scarti, fatta di oggetti. Ma è facile vedere sotto i vari ponti del Tevere, sopra c'è Castel Sant'Angelo, sopra ci sono degli scorci stupendi della città, dei veri e propri accampamenti a cielo aperto, delle camere a letto senza pareti, senza soffitto, in cui si vedono i letti, si vede il comodino, si vede una sorta di abbozzo di guardaroba, e lì dentro vivono delle persone. E queste persone chi sono? Ah, sono stranieri, clandestini, gente a margine della società? No, sempre di più sono italiani, italiani come noi, come voi, che a un certo punto della loro vita, per varie circostanze, hanno perso il lavoro, la famiglia si è distrutta, si sono trovati degli oneri più forti della loro capacità e quindi sono trovati a vivere per strada. La gente in tutte le stazioni purtroppo ci sta. Tante volte qui le mandano via parecchie persone, però purtroppo la serata è brutta stasera, si prevede che sia molto brutta, però so che ogni tanto vengono alla Caritas, che vengono col tè, i biscotti, quei coperti. Qualcuno ogni tanto ci pensa. C'è chi non ce la fa, chi è rimasto fuori casa, chi si è lasciato con le mogli, che è successo qualche cosa. Parecchie volte viene una vecchietta ogni tanto qui, ma non c'è nessuno, non c'è né figli, nessuno che l'ascolta. Queste sono persone che parlano della stazione Termini, che come tutte le grandi città la stazione è il luogo principe in cui chi è senza dimora trova comunque un tetto, una maniera di passare la giornata. In particolare nel giro che faccio tutte le mattine uscendo dalla metropolitana di Piazza La Repubblica per venire alla radio da dove trasmetto, passo davanti a quella terrificante, orribile aborto di statua a Papa Wojtyła, accanto ci sono sempre due signore piuttosto anziane, sono lì da anni, vivono con una sorta di loro proprietà distribuita su due carrelli del supermercato pieni di sacchetti annodati, e hanno dei fornelletti, delle masserizie, passano la giornata lì, ogni tanto si aprono quei cappotti multistrati, si accovacciano, fanno i loro bisogni lì nella piazzola spartitraffico dove passano le macchine, arrivano i pellegrini, il Papa le guarda e benedice. Giovanni, buongiorno. Buongiorno a lei, dottore. Una piccola domanda, volevo sapere come si fa a dare un permesso di soggiorno a qualcuno che non ha una residenza, non ha nessuno di cui si prende cura lui, cioè che garantisce per questa persona che prende il permesso di soggiorno. Le spiego perché glielo chiedo. Io 3 anni fa ho cambiato casa, ho cambiato indirizzo, prima che mi concedevano il nuovo documento ho patito le pene dell'inferno, il vigile è venuto, non l'ha trovata, certo sto lavorando, che mi trova? Cioè, capito? Ecco questo. Ma cosa le fa pensare? Primo, che la maggior parte delle persone che vivono per strada abbiano bisogno di un permesso di soggiorno, essendo in gran parte italiani, quindi sono cittadini italiani come noi. Seconda cosa, molte volte sono stranieri clandestini, non è detto che abbiano il permesso di soggiorno. Siccome si parlava che dice sono forse stranieri con il permesso di soggiorno, sembra che abbiano il permesso di soggiorno, mi sono meravigliato, dico come si fa a dare un permesso. Lei sta parlando di quelli che sono stati trovati bruciati. Sì, questi che sono stati trovati bruciati. Ma adesso non so esattamente come sia la fattispecie, perché al momento che hanno ottenuto il permesso avevano una residenza provvisoria, poi improvvisamente sono trovati senza, perché questo può senz'altro accadere. Sergio, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, senta, volevo portare la mia esperienza, io sono un tassista di Milano e quando portiamo le persone all'aeroporto alla mattina presto ci rendiamo conto che ci sono delle persone che sono in uno stadio precedente di quello che ha descritto lei, e cioè sono persone che non hanno casa e che dormono lì, però magari hanno un lavoro e magari è gente divorziata, penso io, perché si vede che dormono, sono vestiti in un certo modo, abbastanza normale. E vanno in bagno, si sbarbano, e attaccano i telefonini e poi partono. E secondo lei dove dormono? Dormono sulle panchine dell'aerostazione. E sono persone, diciamo, fra virgolette, che poi durante il giorno svolgono un'esistenza apparentemente normale? Sì. Secondo me sì, perché si vede, insomma, poi noi abbiamo un po' l'occhio, no, delle persone che sono... Cioè si ripuliscono, si vestono decentemente, si fanno, sì, la barba, esatto, e si vanno a lavorare. Sono persone molto, come si dice, riservate, non si vede che non danno fastidio a nessuno, e poi si vestono, cioè si vestono, si lavano, si sbarbano, attaccano il telefonino e partono. Le loro cose dove le tengono? Ma probabilmente ce le hanno addosso. Hanno solo quello che hanno addosso? Sì, e questi arrivano all'ultima ora più tardi, e poi l'aerostazione chiude, però non sono moltissimi, ma ci sono e si notano, ecco. E poi loro sono molto discreti, sono persone che, non perché gli altri non ce l'hanno, però loro dimostrano una certa dignità nell'essere in una situazione che però alla fine è molto triste, fai molta fatica a iniziare la giornata di lavoro a vedere certe persone con dignità in queste condizioni. Ecco, questa qua era la mia esperienza. Mi diverto molto nel leggere certi commenti degli ascoltatori. Non capiscono che il bersaglio ultimo della mia crudeltà sono proprio loro. Non che io sia diventato, come mi scrive un ascoltatore, insolitamente retorico e strappalacrime. Che palle. Non sono né retorico né spreccalacrime. Sto semplicemente osservando e vi racconto il frutto della mia osservazione. Non ho un atteggiamento pietistico. Sto semplicemente raccontando un fenomeno. Porca miseria, 10 minuti e stai pestando l'acqua nel mortaio. Vai al sodo. Dire a certi ascoltatori li sega dopo 30 secondi. Fessi loro a continuare a chiamare. Seguo dopo 30 secondi chi non dice cose utili e interessanti. Paolo Pezzana, buongiorno. Buongiorno a voi, ascoltatori. Paolo Pezzana è presidente del FIOPS, che è la Federazione Italiana... FIOPS è impronunciabile. FIOPSD, Federazione Italiana degli Organismi per le Persone Senza Dimora. Si occupa comunque, come principale sua... punto di interesse alle persone senza dimora. Abbiamo già avuto ospite qualche volta. Pezzana, rispetto a quello ci siamo detti l'ultima trasmissione, che è stata solamente un paio di mesi fa, non molto tempo fa, sono già cambiate le cose, perché c'è stato un rapporto ministeriale che fotografava questa situazione di cui abbiamo parlato, ma nemmeno un anno dopo già è stato ricommissionato un altro rapporto. Vuol dire che così velocemente sta cambiando la situazione? Sì, purtroppo è proprio così, nel senso che la grave emarginazione, come chiamiamo quella fascia grigia di persone che abitano la città sotterranea che descrivevate, è un fenomeno in continua evoluzione che si trova in fondo a un piano inclinato. Su quel piano inclinato stiamo tutti noi, come è stato correttamente detto, compresi gli ascoltatori di questa trasmissione, ed è un piano inclinato sul quale si scivola. Se si hanno appoggio... Che stanno rompendosi le palle, mi telefonano, che palle, ci parli di questa roba. Però purtroppo si trovano lì, come mi ci trovo io, come ci trova lei. E no, mi ci potete trovare anche io domani, perché è sufficiente che si chiuda un lavoro, si chiuda un contratto, e anche una persona che apparentemente ha un tenore di vita buono può trovarsi in difficoltà, se ha famiglie da mantenere. È proprio così, perché quando si arriva in fondo ci si trova in una situazione nella quale improvvisamente la mancanza completa di appoggi lascia come unica alternativa la strada. L'aeroporto di Linate è stato citato, ma molti aeroporti, così come realtà che fino a ieri non erano luogo di dimora per le persone senza dimora, stanno diventando luoghi nei quali si possono incontrare persone in questa situazione. Noi vediamo le file davanti alle mense e i centri di distribuzione per alimenti delle nostre città incrementarsi. Addirittura è paradossale, lo vorrei raccontare, qualche giorno fa ero a Torino, dove davanti a un centro di ascolto della Caritas, luogo dove si fanno ascolto le persone, si distribuiscono generi di prima necessità, si pagano le bollette, eccetera, c'è una fila piuttosto lunga di persone tutto sommato ben vestite e ordinate, e mi raccontavano gli operatori che i barboni, tra virgolette, parola che odio ma che viene ancora utilizzata per descrivere il crochard tipico, non vanno più perché si sentono a disagio in mezzo a tutta quella gente. C'è troppa normale. Gente ben vestita. C'è troppa gente ben vestita, è un paradosso incredibile, ma fotografa per me, davanti ai miei occhi, ha fotografato in maniera fulminante le trasformazioni. Senti Pezzana, sul racconto del tassista chiamato poco fa, vorrei avere qualche elemento in più. Queste persone che dormono alla stazione, la mattina si vestono, si fanno la barba, si lavano nei bagni della stazione, si riassettano per avere un aspetto decente, per non puzzare, per essere accettabili, attaccano il telefonino e vanno a lavorare. Risulta anche a te che esista questo fenomeno? Assolutamente, addirittura se mi è accorta la statistica. Nel nostro rapporto è evidente come il 30-35% delle persone senza dimora abbia un lavoro e alcuni hanno persino un lavoro definito stabile, sebbene il reddito medio che le persone senza dimora hanno dai lavori che svolgono sia di circa 357 euro al mese, quindi comunque ben al di sotto di ogni soglia di sopravvivenza. Ma è proprio questa la fascia che sta crescendo, quella dei cosiddetti working poor, delle persone che pur avendo alcuni elementi di stabilità come appunto un lavoro, qualche affetto qua e là, non riescono, a causa di rotture, separazioni, mille altri motivi, a mettere insieme gli elementi oggettivi fondamentali per un'esistenza dignitosa, una casa, appunto un lavoro con un reddito minimo, la possibilità di pagarsi le cure. Anche questo è un problema, perché la sanità pubblica sempre meno protegge, quindi sempre più è necessario intervenire con risorse private che queste persone non hanno, e così via. Insomma, una situazione di selezione fra i bisogni primari. Non si può fare selezione tra i bisogni primari, i bisogni primari vanno soddisfatti tutti. Mi scrive un ascoltatore un SMS: ci sono persone che vanno a lavarsi nei bagni dei centri commerciali, all'apparenza sembrano persone con una vita normale, sono pulite e ben educate. Vedete che le testimonianze stanno venendo fuori, coloro che pensano che sia una trasmissione pietistica e strappalacrime. Stiamo fotografando una realtà di cui ancora si parla molto poco. Il vostro vicino di ufficio, ammesso che possa avere ancora lavoro, la persona vedete abitualmente prendersi un cappuccino la mattina e centellinarlo perché duri il più possibile, è una di queste persone, molto probabilmente. Ognuno di noi potrebbe trovarsi, e non lo augura nessuno, in una situazione del genere, che da un giorno all'altro avere un tetto sulla testa che diamo per scontato diventa un'impresa ardua e difficile. 800240024. In Italia le persone senza dimora sono circa 47.000. Milano è la capitale italiana degli homeless, con 13.000 persone senza dimora. Roma è seconda con 7.800 persone. Palermo è terza con 3.800 persone, di cui più del 60% stranieri. In Italia le donne senza dimora sono circa 6.000. Gli uomini sono circa 41.000. I senza dimora sono giovani, l'età media è di circa 42 anni. Stranieri e italiani quasi si equivalgono, 28.000 persone sono straniere, 19.000 italiane. Tra gli stranieri il livello di studio è più elevato. Quasi il 10% degli homeless stranieri presenti in Italia è laureato, il 43% ha un diploma di scuola media superiore. Queste schede riportano i dati della ricerca nazionale sulle condizioni delle persone senza dimora, ci confermano quello che stiamo dicendo. Paolo Pezzana, chi aveva fatto questa ricerca, chi è che ha contribuito a fare questa ricerca, che per adesso è la più aggiornata, è di un anno fa, non è che sia poi così vecchia, anche se già c'è il bisogno di aggiornare questi dati. La ricerca è stata promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e insieme a Caritas Italiana ha finanziato un percorso scientificamente guidato da Istat e condotto poi da noi della FIOPS, per cui hanno contribuito a fare gli operatori. È una ricerca che è stata fatta impiegando migliaia di volontari in tutta Italia, quindi ha avuto anche costi molto bassi, rappresenta una buona pratica da questo punto di vista, e che per la prima volta nel nostro paese ha fotografato la situazione di coloro che vivono per strada e nei dormitori. Attenzione, se noi parlassimo di homelessness, quindi la condizione delle persone che sono senza dimora in modo europeo, in Europa vengono considerate homeless anche le persone che hanno abitazioni precarie, rifugi, situazioni abitative, diciamo come quelle che sono state descritte all'inizio. È vero, Pezzana, che molti che l'escalation è iniziare a dormire in macchina o in una roulotte, che hanno roulotte, e poi lentamente passare a queste altre situazioni. È lo scivolamento, ma il 63% delle persone è arrivato in strada direttamente da una casa nella quale viveva stabilmente. Questo è un dato sconvolgente. Cioè il 63% delle persone che abbiamo incontrato diceva che prima di finire in strada era in casa. Quindi anche quest'idea della progressione, che pur c'è, riguarda un numero importante di persone, però oggi è assolutamente messa in discussione. A volte il precipizio è molto più ripido di quanto si possa immaginare. Margherita, buongiorno. Sì, buona giornata. Dunque, io rispondevo soprattutto alla sua domanda iniziale, se altre città oltre Roma potevano presentare delle situazioni come quelle presentate stamattina. E non più tardi proprio della settimana scorsa, io abito in una zona residenziale limitrofa di Milano, anche questa zona nel suo insieme è una zona residenziale. Mi è capitato di incontrare un giovane uomo, penso che avesse attorno ai 35 anni, non sono stato in grado, vestito poveramente ma comunque in modo corretto, dignitosamente, che frugava, sì, non avrei, avrebbe potuto essere uno dei tanti giovani cosiddetti casual, che sono a volte molto, molto simili nell'abbigliamento, e che frugava nei cassonetti della spazzatura. Io andavo a depositare la mia... sul momento non, la mia residenza è grande, io non lo conoscevo, per cui, però poi mi ha aiutata perché mi si è rotto un sacchetto del lume, insomma abbiamo scambiato due parole. E ho visto che lui raccoglieva delle cose, degli oggetti che erano strani per me ai miei occhi, articoli di Natale, un bagnetto di plastica, e allora lui mostrandomi queste cose, chiedendomi un aiuto, tra l'altro, cosa naturalmente abbastanza ovvia, e mi dice: perché mi ci scaldo l'acqua? Dico: ma che cosa se ne fa di questi oggetti? Perché dice: li porto in un posto dove dormo e dove ci sono altre persone, poi ce li scambiamo e poi me li vediamo. Cioè, devo dire che la cosa mi ha molto colpita. Io non l'ho potuto aiutare più che in una piccola misura, perché oltretutto avevo appena fatto la spesa, però comunque un aiuto gliel'ho anche dato. Ma era chiaro che questa persona si scaldava l'acqua, lavasse, non so, per lavare le sue cose, e qui in questa zona, perché io non l'avevo mai visto. Adesso abito qui da diversi anni ormai, poi comunque ho sempre abitato. Allora, Margherita, ferma lì. Questo conferma quello che mi diceva Paolo Pezzana. Correggimi se sbaglio, Pezzana. Si sta organizzando con sistemi di fortuna una vera e propria società sotterranea. Questo signore, come se noi andassimo all'IKEA a comprarci mobili, va a comprare le masserizie per la sua casa all'aria aperta, magari in un tunnel, in un sottopassaggio, in una baracca, in un cantiere, andandole a rovistare e prendere nei cassonetti. Ma se in questo momento ci fosse qualche ascoltatore, ad esempio, di Genova e andasse in piazza Caricamento, troverebbe dietro al parcheggio che confina con il sottopasso della strada principale un vero e proprio mercato organizzato per generi, per attività, fatto esclusivamente da cose che vengono raccolte dai cassonetti, i più differenti, perché la raccolta è differenziata da opportunità differenti, quindi sanno selezionare anche fra cassonetti, che sono messi in vendita anzitutto tra di loro, ma anche sempre di più per persone normali della città che vanno lì ad acquistare. Si creano delle vere e proprie microeconomie. Io dico sempre, un po' provocatoriamente, che le persone che vivono per strada imparano a sopravvivere e a gestire l'economia in condizioni talmente essenziali e minime che noi dovremmo metterci la loro scuola per imparare ad utilizzare meglio le risorse che abbiamo in un momento di scarsità e di crisi come questa. Lo dico chiaramente provocatoriamente, ma c'è una capacità organizzativa che dimostra della resilienza, della capacità di resistere, di riorganizzarsi, di sopravvivere, di rimanere attaccati alla vita dell'essere umano, che è straordinaria. Può essere scambiata per degrado. Io preferisco guardarla con gli occhi di chi pensa che sia una testimonianza di quanto l'uomo, prima di essere completamente annichilito, sia in grado invece di mettere in campo le proprie. Fermiamoci un secondo, Pezzana, e riprendiamo immediatamente. Melog, la realtà condivisa. Senza dimora per molto tempo. 2,5 anni è la durata media della condizione di homelessness. Più del 25% degli italiani lo è da 4 anni o più. Prima una dimora l'avevano in molti. Il 63% degli homeless italiani, prima di divenire senza dimora, aveva una casa propria. Solo il 7,5% non ne ha mai avuto una. Il 65% delle persone senza dimora vive senza alcuna fonte di reddito, ma solo il 7% chiede l'elemosina. Il 53% è diventato senza dimora dopo una separazione coniugale. Il 64% delle persone senza dimora ha avuto un coniuge e dei figli, ma il 75% di loro vive da solo. 800240024, vi stiamo dando qualche dato, perché questa, secondo me, non è la solita trasmissione che si fa sui poveri clochard, sulle persone senza dimora. Di solito queste trasmissioni si fanno sotto Natale, si fanno per sentirci più buoni, per sentirci assolti. No, questa è una cruda e spietata trasmissione che sta analizzando quello che abbiamo detto, il piano inclinato. È un piano inclinato su cui chiunque di noi potrebbe trovarsi. Avete sentito i dati sono abbastanza chiari, non mi sembra che ci sia nulla da aggiungere. Chiunque può trovarsi nella situazione in cui si trova una percentuale alta, in maniera preoccupante alta, di nostri connazionali. Non perché ci sia differenza nel disagio fra il connazionale, fra la persona che appartiene storicamente alle categorie di disagiati. No, perché è ben cosa diversa guardarsi allo specchio e dire domani mi sono alzato da una casa con un letto, con una caffettiera sul fornello, con possibilità comunque di lavarmi e farmi una doccia. Da domani puoi trovarmi per strada, cercando un bagno in un supermercato, in una stazione, in un bar, cercando di mantenere un aspetto decente per avere ancora quel minimo di rapporti sociali necessari a procurarmi il sostentamento. Ne sto parlando con questo con Paolo Pezzana, che è presidente della Federazione Italiana degli Organismi per le Persone Senza Dimora. Su questi altri dati, Pezzana, vediamo di entrare in più nel commento. Vedo che c'è un numero preponderante di uomini rispetto alle donne. È più facile ci si trovi un uomo in questa condizione? Sì, questo storicamente è testimoniato un po' in tutte le parti del mondo, i nostri attuali dati confermano questo tipo di tendenza, ma il dato più sconvolgente tra quelli che abbiamo letto, gli addetti ai lavori se ne rendono conto subito, vale forse però la pena spiegarlo a tutti, è la durata nella situazione di povertà. Nel senso che a livello internazionale si considera persona senza dimora da lungo tempo chi supera i 12 mesi in quella condizione. Noi abbiamo gli italiani che in Italia in media rimangono senza dimora per più di 4 anni. Questo significa che sono persone che lo sono da 15, da 20 e significa anche che la situazione di emarginazione nel nostro paese è particolarmente vischiosa. In fondo al piano inclinato c'è una palude e una volta che si rimane impaludati in quel tipo di vita ci sono veramente poche chance di venirne fuori con efficacia. Questo è il dato più drammatico che probabilmente la ricerca ci restituisce e che la situazione attuale ci mette davanti. Qualcuno mi sta scrivendo, state descrivendo una situazione simile a quella della Grecia. È la situazione che stiamo vivendo. Non so quanto possa trapelare ogni giorno dagli organi di informazione ufficiali, però non è che stiamo raccontando o forzando dei dati. I dati sono questi, li sto semplicemente raccontando, per questo ne voglio parlare. Giorgio, buongiorno. Sì, buongiorno dottore. Senta, io volevo raccontare la mia esperienza lavorativa per tanti anni che lavoravo presso il Dipartimento di Prevenzione di Milano. E diciamo che noi facevamo dei sopralluoghi presso le fabbriche abbandonate, diciamo nei campi attorno, nelle rogge vettabili e via. E purtroppo di questa situazione, di questi, soprattutto diciamo che erano anche italiani e stranieri, che vivevano sotto i ponti, con baracche di fatti da loro, con lamiere, plastica attorno, e all'interno proprio di queste baracche qui vi erano anche soprattutto delle pantegane, diciamo che loro dormivano assieme alle pantegane. Beh, chiaro, io ho sott'occhio la mia situazione, è chiaro che chi dorme sugli argini del Tevere, certo, nottetempo si fa caldo con i topi perché quelli ci stanno. Certo, poi la cosa che mi impressionava dappertutto erano queste diciamo fabbriche abbandonate, altri posti che dice come facevano a vivere, è normale, e di là attorno o nei dintorni o all'interno, cose che vi erano all'interno, vi erano sempre auto abbandonate. Diciamo che vivevano in questo modo, riciclando tutta questa roba qui. Ecco, questo è il dato. Questo è il dato. Sicuramente. Sì, questo è il dato fra gli altri che stiamo analizzando che capisce. Mi interesserebbe capire. Grazie, Giorgio. La capacità di organizzazione. Allora, siccome la popolazione è cresciuta, siccome la popolazione in realtà è anche formata di forze fresche, forze nuove, gente che davanti ha una prospettiva, come diceva Pezzana, di passare un tempo lungo, quindi non è che dice tiro avanti, sarà una settimana, un mese, il tempo è lungo, quindi deve cominciarsi a organizzare, deve edificare. E dove si edifica? Si edifica nei posti nascosti, nei ripostigli della città, nelle zone d'ombra. E con che si edifica? Con dei materiali che bisogna procurarsi. Pezzana, anche in questo caso ci sono delle organizzazioni per procurare le masserizie per costruire la città sotterranea? È una società parallela, quindi come tutte le società necessita di organizzarsi. C'è un'immagine molto bella del grande sociologo Sigmund Bauman che qualche anno fa in un libro che chiamava Vite di scarto, sì, diceva chiaramente come la società a progetto che stiamo vivendo, in quanto tale, cioè in quanto progetto che prende una cosa, la riduce a un elemento specifico, produce degli scarti. Questi scarti vengono accumulati in grandi discariche pressoché invisibili e dentro quelle discariche, così come negli slums a cui siamo abituati, stati del terzo mondo, si generano dei movimenti di persone che proprio utilizzando gli scarti cercano di rendere sostenibili le loro vite di scarto. E secondo me questa immagine degli scarti, delle vite di scarto che lavorano tra gli scarti, è una delle immagini più importanti ma azzeccate per definire quello che sta accadendo. Si creano delle vere e proprie organizzazioni informali, chiaramente, ma anche con dei loro codici, con delle loro regole. La violenza, ad esempio, sulla strada tra le persone senza dimora, in larghissimi casi, è attribuibile a regolamenti di conti o giustizie sommarie che avvengono tra le persone stesse. Certo, a volte ci sono anche cialtroni di buona famiglia che vanno a tirare le uova o dare le bastonate alle persone che dormono per strada, ma per la maggior parte questa violenza non fa notizia. Noi, parlando con le persone, ci dicono: mi hanno picchiato quelli che dormono tre panchine più in là, perché questo pezzo del territorio era loro, perché sono andato a raccogliere i cartoni da quei negozi dove di solito vanno loro. Cioè, si crea anche una brutale, animalesca giustizia che però cerca di rispondere proprio a un'esigenza di organizzazione. Pezzana, ogni Stato moderno, democratico e sorridente è stato creato su una brutale e violenta atto di esproprio di qualcun altro. Noi tutti viviamo su una terra che apparteneva a qualcun altro e ce la siamo presa. Risale la cosa probabilmente alla notte dei tempi. Quindi si stanno ricreando dei meccanismi basilari della creazione di una società e si stanno creando sotto i nostri piedi in una zona parallela. Qua realmente parliamo di una realtà parallela, non è una teoria astrofisica o teorica. In realtà in ogni città italiana si sta creando una sottocittà che si sta costituendo con le regole più antiche che esistono nella costituzione della società. La domanda è fino a che punto e fino a quando questi due ordini potranno convivere ignorandosi reciprocamente, che cosa accadrà in quando questo conflitto tra i due ordini invece avverrà in modo evidente. Io me la pongo seriamente questa domanda. Diciamo che la fantascienza ha affrontato questo problema spesso, la città degli uomini sotterranei che poi emergono, si scontrano con gli altri. Non voglio arrivare a banalizzare quello che stiamo dicendo, però è uno scenario di cui bisogna tenere conto. Benedetta, buongiorno. Buongiorno. Diciamo, io sono sensibile a questo problema e 25 anni fa ho lavorato attivamente per ricostituire il servizio Caritas di San Bellarmino, che è una parrocchia importante romana che si occupa, insomma, dei homeless, diciamo. Vabbè, abbastanza. Classica attività parrocchiale, classica di una volta, quando ancora le parrocchie erano serie. E comunque, diciamo, sono poi rimasta benissimo presente la situazione, l'evoluzione della situazione degli homeless, come sono cambiati, voi l'avete spiegato, è inutile che mi ripeto, diciamo. Invece trovo che uno spunto forse potrebbe essere preso banalmente dal film La ricerca della felicità, che vidi tempo fa, di Muccino, che diceva una cosa per me molto vera, e cioè quando si cade in queste situazioni. Dio, la citazione veramente mucciniana mi sta provocando dei dolori insopportabili. Prego, continui. Sì, ho capito, sì, ma in generale Però era molto utile il fatto, e infatti lui perdeva parecchio tempo, il protagonista, adesso è inutile che lo spiego, sì, ma se l'ha visto comunque, diciamo, il protagonista cercava di cambiare vita, insomma, di risollevarsi da una situazione tanto disagiata, tentando appunto di formarsi, di inventare un nuovo lavoro e tutto quanto, però cercando di arrabattarsi, dormendo in dormitori di fortuna che però erano molto difficilmente fruibili, no? Quindi doveva fare delle file importanti, eccetera. E io trovo che il problema sia questo, cioè il fatto che non ci siano abbastanza dormitori, che sarebbero anche... Poi il protagonista in quel caso era un milionario, una storia vera che era un milionario americano che negli anni Ottanta ha vissuto per qualche giorno in situazioni di povertà. Questo che è interessante, non è una fantasia di Muccino, cioè, sì. È vero che nella vita possono capitare dei momenti di grande difficoltà. Mi ha fatto molta impressione quel tassinaro che parlava di quelle persone che cercavano di ridarsi una parvenza di normalità per poi riaffrontare il mondo col telefonino, magari ultimo modello, eccetera, no? Sono cose impressionanti. Quindi tutti possiamo capitare, come avete già detto, in situazioni così. Avere almeno una base che consente il dormire, il pulirsi, il fare i propri servizi igienici e poi poter reinventare la giornata, vedere se è possibile cambiare qualche cosa, credo che sia fondamentale. Credo davvero che non sia accettabile questa edificazione di cui lei parla, anche con una certa... Il problema è che il film di Muccino, come La storia così spera, è una storia a lieto fine, poi torna ad essere ricco. Questi in realtà rimangono lì, rimangono dentro la melma. Melog, la realtà condivisa. La strada unica possibilità. Più del 70% delle persone senza dimora dorme comunemente in strada o in stazione. Solo le mense sembrano accessibili. Accede alle mense il 90% delle persone senza dimora, ai dormitori solo il 35%. La salute è un diritto praticamente negato. Il 20% delle persone senza dimora ha gravi problemi di salute. Solo il 54,7% del totale delle persone senza dimora ha incontrato un medico negli ultimi 12 mesi. 800240024, mi scrive un ascoltatore, mi segnala che anche a Ponte Marconi, a Roma, c'è un mercato proprio di questi oggetti di recupero. Sembra impossibile, ciò che noi buttiamo via, cui non diamo più nessun valore, ricostruisce la risorsa per la costruzione degli appartamenti, delle case, dei condomini, di questa città parallela e sotterranea di cui stiamo parlando questa mattina. Franco, buongiorno. Buongiorno. Beh, io sono stato senza casa, ho dormito, quindi ho l'esperienza diretta, in un campo di fronte, sono italiano. Cioè, per quanto tempo? Per una ventina di giorni, un centro commerciale che si chiama Panorama, homeless, isolato, quindi il fenomeno delle piccole città. Cos'era successo, Franco? Sfratto, separazione, io svolgevo attività giornalistica, ho fatto il portaborsa alla Camera dei Deputati, all'improvviso. Quindi un giornalista che ha fatto l'homeless? Pubblicista, quindi insomma. Vabbè. Poi all'improvviso, aveva anche un ruolo qui in questa città. E poi niente, poi le porte si chiudono e ogni analisi sociologica e ogni buonismo non esiste più, si appiattisce. Franco, ma i suoi colleghi, le persone per cui lei lavorava, un giornalista poi soprattutto in una città diciamo piccola, è una persona conosciuta. Come valutavano il fatto che lei andasse a dormire alla stazione, al supermercato? Con grande stupore, ma poi nessuno muoveva niente. C'era lo stupore e la paura dello scivolamento verso una situazione come da mia. Cioè, mi ho indicato come, ma guarda che condizioni è, detto un po' alla Toscana. Poi nessuno diceva ti do una mano, ti do la mia seconda casa al mare. No. Non è successo. Quindi Franco, la lezione è questa. Cari colleghi che vi trovate in situazioni privilegiate, sappiate che in questo momento in qualunque campo professionale la crisi sta facendo sentire, un po' crisi vera, un po' qualcuno approfitta della crisi per dare delle belle sforbiciate a quelli che considera dei pesi morti. Da un giorno all'altro potreste trovare nella situazione di Franco, ci potremmo trovare, e non vi aspettate, e non ci dobbiamo aspettare certo, solidarietà o riconoscimento a parte delle persone con cui abbiamo sempre avuto rapporti. Franco, invisibile nella sua città, ha vissuto per un mese da barbone, termine orribile, ma questo era, e di fronte agli occhi di tutti. Tu dici, no, vedi, poveraccio, come si è ridotto, come è andato a finire. Danilo. Sì, buongiorno. Io volevo dire questo. Appartenendo a un'associazione a livello nazionale che si occupa anche dell'assistenza a queste persone, devo dire che fondamentalmente noi non rileviamo un aumento del numero degli homeless che utilizzano gli scarti della società per vivere, ma bensì rileviamo un aumento del numero delle persone che, pur avendo una situazione abitativa apparentemente normale, poi per la vita quotidiana hanno la necessità di utilizzare questi scarti per sopravvivere, perché proprio per quello che riguarda il numero degli homeless, da anni non rileviamo questo aumento così marcato, come si dice, è un aumento di poche unità, cioè queste persone fondamentalmente sono sempre quelle, sempre le solite, sono molte di più invece quelle che, pur avendo e vivendo normalmente, hanno apparentemente normalmente, hanno la necessità di utilizzare gli scarti per vivere. Quindi esiste una soglia di povertà occulta che lei sta rilevando, persone che ancora diciamo hanno una casa, pagano un affitto, hanno una casa di proprietà, poi cominciano a usufruire di questa sottoeconomia, come appunto la definiva Pezzana. Perché? Perché sanno che da lì a poco la situazione potrebbe addirittura tracollare. Allora, Paolo Pezzana, rispetto, vediamo ancora di aggiungere gli elementi che ci mancano a definire questa categoria che non è molto conosciuta. Vedo grande perplessità. Prima aveva chiamato una signora, poi le è venuto da piangere, non ha avuto più continuare. Si trova nella stessa situazione del signore che ha telefonato prima, adesso non voglio, perché voglio parlare della mia categoria, ma anche lei è stato con un giornalista che è stato licenziato, messo in mobilità, adesso non so esattamente la situazione, dice che facciamo da un giorno all'altro e siamo poveri. Non è che poi sono lavori che si può uno inventare altre cose, tutta la vita ha fatto questo, sono lavori che difficilmente danno capacità di riorganizzare una vita se non andando a rovistare appunto nei cassonetti. Io in strada ho conosciuto manager, orafi, stilisti, architetti, quindi davvero trasversale. Per completare il quadro volevo però ricollegarmi ad una cosa che ha detto il collega Danilo, se non sbaglio poc'anzi. È vero che molti dei servizi che lavorano con le persone senza dimora in questi anni non hanno conosciuto grossi incrementi di numeri, perché i nostri servizi sono stati configurati su un fenomeno così come si presentava negli anni 90. Tradizionale, ecco. Sì, ma tradizionale però i servizi, diciamo la maggior parte dei servizi in Italia pensavano che si dovessero giusto agganciare le persone in strada con i bisogni emergenziali, quindi la mensa, il dormitorio d'emergenza, e poi strutturare dei percorsi di accompagnamento. Buona parte delle persone che sono le stesse di cui Danilo parla, cioè che oggi magari vanno alla mensa per risparmiare i 5 euro che altrimenti non saprebbero come fare a trovare nel bilancio familiare, non sono ancora tecnicamente per strada, ma sono già in un punto oltremodo pericoloso del piano inclinato di cui parlavamo prima. E a rispondere a questi problemi i nostri servizi non sono pronti, perché noi al limite riusciamo ad offrire una mensa ed un dormitorio. C'è stato un crollo, una caduta significativa dei finanziamenti sia pubblici che privati per i servizi di inclusione sociale, mentre, come ci dicono i dati, se probabilmente riuscissimo a mettere a disposizione degli alloggi a basso costo sufficientemente dignitosi a queste persone, il 60% di loro avrebbe la possibilità, come l'ascoltatore di cui abbiamo parlato, di tirarsi fuori dalla situazione con le proprie risorse, probabilmente ne rimarrebbe un 40% per il quale servono percorsi più articolati di sostegno, ma noi non stiamo investendo sulle abilità fondamentali delle persone, questo è il problema. Cioè avrebbero comunque un tetto, una vita dignitosa, poi una vita magari abbastanza ai limiti della dignità, però intanto avrebbero il tetto, non sarebbero per strada. Mi stanno scrivendo un'ascoltatrice in particolare, Anna, mi dice io da tanto tempo vado a fare la spesa, ma nei supermercati e nei mercati cittadini, ma poi la faccio nei cassonetti, non è che vado a comprare, aspetto che buttino via le cose e le vado a recuperare, ci sono delle cose che posso mangiare. Raccontato così è una cosa struggente, ma ne vedo tante anch'io. Andate in un mercato dell'orario di chiusura, guardate quanta gente va a razzolare fra le cassette o chiede, cioè, tanto se lo buttate datemelo a me. Questo non è certo sintomo di felicità o di benessere, chi lo fa con grande senso di umiliazione e di mortificazione. Giorgio. Buongiorno dottor Nicoletti. Sì. Pronto? Il discorso che lei sta affrontando oggi, nel senso che dopo aver lavorato all'estero per 20 anni sono tornato in Italia come piccolo imprenditore. Vai per scelte sbagliate, vai per collaboratori sbagliati, via dicendo, mi sono ritrovato proprio ieri ad andare a avere bisogno della Caritas, anche perché mi sono dovuto vendere la casa e tutto quanto. La realtà che ho trovato lì dentro è quante realtà ci sono di questo tipo. Quindi, proprio in conclusione, proprio una sigla, ci chiama un imprenditore e ci dice che anche lui è finito in questo piano inclinato e si rivolge alla Carsa. Si vede che questa mattina non volevamo fare una trasmissione strappalacrime, volevamo semplicemente raccontare una realtà. Date un'occhiata intorno.